Con Marcella Piccinini, produttrice e regista del film La mia casa e i miei coinquilini, Il lungo viaggio di Joyce Lussu, che esce in sala il 18 ottobre e sarà al cinema Apollo a Roma. Marcella, ben trovata. Grazie. Descriviamo il tuo lavoro. Allora, è un lavoro che abbiamo fatto in 5 anni. Il documentario vuole raccontare una parte della vita di Joyce dal periodo parigino, quindi dal periodo prima della guerra. Quando ha fatto parte di Giustizia e Libertà, il periodo che ha vissuto con Emilio Lussu. La seconda parte è la Sardegna, quando lei andava in Sardegna, e la terza parte racconta il suo rapporto con Hakim Hikmet, quindi con la Turchia. Quello che lega un po' queste parti è la sua conquista, la sua autonomia, nel senso che ad esempio quando era con Emilio Lussu lei accusava il fatto di essere sempre la moglie di Emilio Lussu e quando finita la seconda guerra mondiale poteva rimanere la moglie del ministro, invece ha cercato una sua identità come donna. E quindi è un po' il suo percorso storico, ma anche il suo percorso personale che io ho cercato poi di far emergere. Com'era nato tutto? Allora, avevo visto un'intervista alla Cineteca di Bologna, mi aveva fatto vedere Anna De Martino questa intervista molto interessante tra Joyce e Marco Bellocchio. Da lì ho iniziato a leggere i suoi libri, che sono completamente l'incontrario dell'intervista, dove nell'intervista Joyce era molto irruente, molto, insomma, con un carattere molto forte, invece i libri erano molto poetici. E quindi mi era molto interessato appunto questi due opposti. E poi Marco Bellocchio ha iniziato a pensare di farci un documentario e all'inizio io dovevo collaborare, quindi ho iniziato a raccogliere materiale, a fare delle interviste e piano piano mi sono appassionata, più andavo avanti più mi appassionavo e poi alla fine Marco Bellocchio mi ha spinto a farlo io. Questo è stato un grande aiuto perché è stato, insomma, il primo documentario dove mi sono un po' buttata e un documentario poi molto impegnativo, con molta responsabilità, quindi così è nato. Cosa ti ha appassionato maggiormente della figura di Lussu? Ma mi è appassionato, ci sono tante cose che mi hanno appassionato, un po' la sua scrittura, il fatto di come lei ha vissuto il femminismo, cioè che l'ha vissuto secondo me dando un esempio, quindi per noi potrebbe essere insomma un po' un esempio di figura di donna che comunque ha attraversato dei periodi storici molto difficili, ma ha continuato nei suoi ideali e non si è, cioè quello che appunto mi ha molto toccato è il fatto che non si è rinchiusa in un gruppo, o comunque ha fatto parte magari di gruppi femministi, però insomma ha fatto il suo modo di essere femminista. Secondo me è un grande insegnamento. Nel tuo documentario, su cosa hai voluto porre l'accento? Appunto su questa parte, poi nella prima parte cioè, è tutto sui suoi libri, quindi un po' ho fatto tantissime interviste, tantissime ricerche per approfondire appunto i suoi libri, quello che lei raccontava e quindi è molto su quello che lei quello di cui lei parla e quindi interessava a me, nel senso che poi ovviamente il libro ho dovuto fare una selezione e alcune cose, tra l'altro mi è dispiaciuto molto toglierle. E poi la parte che mi ha interessato moltissimo anche il rapporto con Emilio, un rapporto molto, molto sincero, molto leale, molto, insomma, quello che lei racconta anche di questi ambienti parigini, un po' il loro, quello che hanno vissuto, come l'hanno vissuto, e fa anche un po' ricredere sui, no, sui rapporti amorosi, sul fatto che comunque anche in situazioni gravi poi se ci si vuole bene, insomma, si riesce poi ad affrontare anche la vita. Che percorso sta facendo il tuo documentario? Vedo che insomma è pronto già da un po' e questa sarà una prima a Roma? Allora, no, il documentario sì, è andato a moltissimi festival. Ok. Allora, sono riuscita a pagare i diritti per i festival, poi è rimasto bloccato perché è stato prodotto nel 2016, poi è rimasto bloccato per un periodo perché non riuscivo a pagare i diritti commerciali, molto, perché ci sono degli archivi molto costosi all'interno, degli archivi storici, di immagini storiche, e adesso con il fatto che poi è andata alla Camera, insomma, si sono sbloccate delle cose, per fortuna sono riuscita a pagare i diritti e quindi può andare nelle sale. Ha fatto la prima a Torino, adesso viene a Roma, poi andrà a Milano, andrà in Sardegna, insomma, inizierà il suo tragitto. Ecco, in questo senso ci dai dei riferimenti web per seguirlo? Su Facebook c'è La mia casa e i miei coinquilini, il lungo viaggio di Joyce Lussu, ed è la pagina dove io metto tutte le notizie, dove viene proiettato tutto quello che succede. Ok, benissimo. Allora ricordiamo questo appuntamento romano all'Apollo 11 il 18 ottobre con La mia casa e i miei coinquilini, il lungo viaggio di Joyce Lussu. Un saluto e un ringraziamento alla produttrice e regista Marcella Piccinini che sarà presente in sala, giusto? Sì, sarò presente domani. Benissimo. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Crepi, grazie mille, grazie.